Euroreportage. Giovani europei in crisi, ma con poca voglia di viaggiare, di Alessandra Schepisi. Sfiduciata nelle possibilità che l'Italia dà a persone come noi. Sarei più propensa a restare qui, ma si spera in un'opportunità di lavoro che però, perlomeno appena laureati, sicuramente no. Avete fatto esperienza all'estero? Nessuno di voi l'ha fatta? No. State di farne? Non lo so, in realtà, non ci ho mai pensato. Il lavoro lo vedete più all'estero o in Italia? No. In Italia. Se ci fossi, sì, almeno sto con mamma e papà. A parlare sono alcuni studenti dell'Università La Sapienza di Roma, ai quali abbiamo chiesto di raccontarci le loro esperienze di studio all'estero e di immaginare il loro futuro, se in Italia o altrove, e se altrove per un desiderio di mobilità o perché costretti dalla mancanza di lavoro. Come si sentono, insomma, i giovani italiani ed europei tra i 16 e i 30 anni, secondo Eurobarometro esclusi, messi ai margini della vita economica e sociale del proprio paese come conseguenza della crisi degli ultimi anni? E il dato più sorprendente dell'indagine commissionata dal Parlamento europeo è che da questo senso di emarginazione non nasce il desiderio di andare all'estero, ma una volontà di non abbandonare il proprio paese, i propri affetti e le abitudini. Insomma, giovani europei che si mostrano meno esterofili di quanto si possa immaginare. Più della metà non è interessata a trasferirsi in un altro paese per studiare o lavorare. Lo farebbe solo se costretto. Addirittura ben l'88% dei giovani tra i 16 e i 30 anni dichiara di non avere mai lavorato o studiato in un altro paese. E il nostro piccolo sondaggio conferma questi dati. Sto concludendo il mio periodo di carriera universitaria e vorrei farmi un'esperienza all'estero ed uno dei motivi per cui vorrei andare all'estero è proprio perché sono sicuramente sfiduciata nella ricerca italiana e nelle possibilità che l'Italia dà a persone come noi. Quindi il tuo futuro lavorativo lo vedi anche all'estero? Sì, assolutamente sì, mi piacerebbe tanto. Stesso discorso suo, però magari ecco, io sarei più propensa a restare qui, ma si spera in un'opportunità di lavoro che però, perlomeno appena laureati, sicuramente no, anzi. L'Europa un po' la vedete come un'opportunità o no? Diciamo che se tutti però se ne vanno, cioè anche questo è il problema, non migliorerà mai la situazione. E secondo me dovremmo anche provvedere a questo problema, cioè sì, in Italia c'è un problema, però non ce ne andiamo, cioè riaffrontiamolo. Tu vorresti poter trovare qui, diciamo, non sentirti costretto? No, perché non, cioè, se uno va all'estero è per fare un'esperienza, per provare, non so, non perché si è costretti. È un Erasmus, non l'hai fatto? No, ho in progetto un corso di inglese di un mese a Londra, adesso quest'estate, quindi vediamo un po' come la situazione anche fuori. Quindi non ho idea di come giri poi il mondo fuori. Non penso sia una cosa forzata, questo voglio dire. Nel senso, anche in Italia si trova lavoro, almeno in quello per la quale mi sto laureando. Però penso che naturalmente all'estero pagano molto di più. E di lavoro ce n'è molto di più soprattutto. Insomma, poca disponibilità a muoversi e se lo si fa è perché in qualche modo ci si sente costretti dalla mancanza di lavoro. Ne parliamo con Brando Benifei, l'eurodeputato più giovane del gruppo dei socialisti democratici, incoronato tra l'altro dalla rivista statunitense Forbes tra i 30 politici sotto i 30 anni più influenti al mondo. L'impressione che trago io è un po' questa, sì, un po' di scoraggiamento dovuto anche a tanti anni di crisi economica, tante delusioni. Tanti ragazzi che finiscono anche un po' nel circolo vizioso dell'inattività, che magari di fronte a una delusione per un lavoro perso, per un programma di studi non completato, poi non ce la fanno a rientrare. Questo scoraggiamento anch'io lo percepisco, al di là della statistica che ovviamente ci dà il suggello scientifico a questa percezione. Aggiungo che diciamo che la mobilità non viene percepita bene quando viene percepita come forzata. Io in generale trovo molto interesse, molta positività nei confronti di programmi di mobilità europea, gli Erasmus. Io mi sto occupando ora dell'Erasmus per gli apprendisti in campo artigianale. Questi meccanismi di mobilità piacciono, ma quando la mobilità diventa un obbligo perché il lavoro non c'è nel proprio paese, e questa mobilità diventa invece qualcosa che non viene ovviamente sostenuta, non piace, perché diventa appunto una mobilità forzata che non deve essere il destino dei giovani europei. Non è possibile che chi nasce in determinate regioni d'Europa, in determinate realtà, abbia come unico destino la possibilità di emigrare o, non, o altrimenti finire in una situazione di disoccupazione. Questo non è possibile e su questo infatti si giocherà secondo me la partita anche nella seconda metà del 2016 della revisione del quadro finanziario pluriennale per rafforzare che è il nostro bilancio settennale dell'Unione, perché dovremo rafforzare la spesa sociale, gli investimenti per reinserire le persone nel mondo del lavoro. Quindi ci sono tante sfide, ma non le possiamo vincere se la politica non riacquisisce credibilità, capacità anche di cambiare le cose. Rafforzare la spesa sociale per inserire le persone nel mondo del lavoro, secondo Brando Minifei. Sentiamo allora quali potrebbero essere gli altri strumenti con i quali le istituzioni europee potrebbero intervenire. Laura Agea, altra giovane europarlamentare, questa volta del Movimento 5 Stelle. Bisogna fare grossi investimenti, bisogna dare opportunità alle aziende di creare nuovi posti di lavoro. Inoltre un'altra grossa carenza è quella di un sistema di istruzione che in qualche maniera segua quelli che sono i cambiamenti ormai evidenti. Oggi manca una politica di condivisione, per esempio, dei sistemi educativi con il mondo del lavoro, e poi manca un veicolo di informazioni tra la dimensione europea e quella degli Stati membri. Pochi mesi fa è stata approvata dal Parlamento europeo la piattaforma EURES sulla mobilità dei lavoratori in Europa. Parte dalla necessità e in qualche maniera di incentivare anche la conoscenza di quelle che sono le opportunità nei diversi Stati membri e tra i diversi Stati membri, creando proprio una sorta di piattaforma internet nella quale si possono da un lato inserire le proprie richieste di lavoro, dall'altro gli imprenditori, chi crea occupazione può accedere ai diversi curriculum che vengono inseriti per vedere se ci sono dei profili adatti al tipo di professionalità che loro cercano. Si parla di più di 1.700.000 posti di lavoro europei vacanti e questo strumento EURES potrebbe essere un modus per poter in qualche maniera creare una connessione tra domanda e offerta. Ma torniamo a parlare con i giovanissimi. Joshua Anecott è uno studente di lettere presso l'Università di Bologna e fa parte del Consiglio Direttivo del Parlamento Europeo dei Giovani, associazione che tra le altre cose organizza sessioni di simulazioni del Parlamento Europeo ogni anno con migliaia di giovani. Loro sì, giovani europeisti convinti che vedono nell'Europa un porto sicuro per rimediare a questo senso di esclusione. Noi come associazione, come Parlamento Europeo Giovani, sicuramente ci rivolgiamo a dei giovani che forse questa tendenza la sentono di meno in realtà, però i dati appunto sull'esclusione sociale, penso, e qui parlo più a nome mio personale perché non vedo il mondo con gli occhi dell'associazione ma lo vedo con i miei, questa esclusione sociale secondo me è palese, la si vede, la sento anche sulla mia pelle, ma appunto grazie anche all'attività che io ho fatto col Parlamento Europeo Giovani, anche nella sua veste internazionale, cioè European Youth Parliament, non ho mai avuto il timore di andare all'estero. Io personalmente ho 23 anni, ho fatto un Erasmus per un anno intero in Germania e tornerò il prossimo anno per acquisire un doppio titolo. Quindi sicuramente a livello personale io sono in controtendenza e mi sento di dire anche che le persone con cui mi interfaccio all'interno dell'associazione quotidianamente si sentono anche loro fuori da questa tendenza di non guardare l'Europa come un porto sicuro per rimediare a questa esclusione. Come Parlamento Europeo Giovani, che cosa potreste proporre per questi giovani europei in crisi? Cosa chiedereste voi alle istituzioni europee? È quello che chiediamo tutti i giorni in più dei nostri 500 eventi che hanno luogo ogni anno. Noi appunto simulando il lavoro dei nostri padri o dei nostri fratelli maggiori che in Parlamento ci siedono veramente, quotidianamente cerchiamo di dare delle risposte che abbiano uno sguardo diverso, che per esempio guardano verso l'Europa come qualcosa che deve diventare più integrata, dove un dato come questo viene rovesciato, dove la dimensione europea diventa la dimensione principe. Quindi la risposta che io mi sentirei di dare alla sua domanda è che appunto noi spingiamo per una maggiore integrazione europea. E per chi volesse saperne di più, il sito del Parlamento Europeo Giovani è apitaly.org. Euroreportage in collaborazione con Euronet Plus.